GR3. All'Università La Sapienza di Roma un convegno sui 40 anni dell'analisi collettiva, una prassi messa a punto dallo psichiatra Massimo Fagioli che si caratterizza per l'elevato numero di partecipanti alle sedute. Tra i relatori lo psichiatra e psicoterapeuta Luigi Cancrini. Io vedo che la possibilità di parlare dei propri sogni in un grande gruppo abbia un interesse che è diversificato a seconda di chi ci va. Ci sono persone per cui è un'esperienza culturale importante. L'analisi collettiva in cosa si differenzia dall'analisi di gruppo che fanno di consueto gli psicoterapeuti? L'analisi di gruppo si fa in gruppi piccoli in cui si tenta di far diventare direttamente terapeutico o formativo quello che accade nella dimensione del piccolo gruppo. Nell'analisi collettiva, secondo me, il giovamento eventualmente terapeutico avviene in modo molto più indiretto e meno organizzato, diciamo. Il movimento delle idee, delle emozioni, dei sentimenti costituiscono un cibo distribuito, poi ognuno prende quello che gli può servire. Negli ultimi anni è cresciuto il disagio psicologico e il bisogno di essere ascoltati? C'è una stanchezza di tanta gente rispetto all'idea che la psichiatria curi i sintomi con le medicine e cresce invece l'idea che le persone possono stare meglio, affrontare il loro disagio con la terapia della parola. Eleonora Belviso, GR3. È in libreria.